457. Pesce al piatto. Ritengo che il pesce, per essere alimento poco nutritivo, sia più igienico usarlo promiscuamente alla carne, anziché cibarsi esclusivamente di esso nei giorni magri. A meno che non vi sentiate il bisogno di equilibrare il corpo per ripienezza di cibi troppo succolenti. Di più, il pesce, in specie i cosiddetti frutti di mare e i crostacei, per la quantità notevole di idrogeno e di fosforo che contengono, sono eccitanti e non sarebbero indicati per chi vuol vivere in continenza. Meglio è il servirsi per questo piatto di qualità diverse di pesce minuto, ma si può cucinare nella stessa maniera anche il pesce a taglio in fette sottili. Quando io l'ho fatto di soglio le triglie, ho diviso le prime in tre parti. Dopo che avrete nettato, lavato e asciugato il pesce, ponetelo in un vaso di metallo o di porcellana che regga il fuoco e conditelo con un battuto d'aglio e prezzemolo, sale e pepe, olio agro di limone e vino bianco buono. Ponete in fondo metà del battuto con un po' d'olio, distendetegli sopra il pesce e poi, versando dell'altro olio il resto degli ingredienti, fate che il pesce vi sguazzi entro. Cuocetelo con fuoco sotto e sopra. Se il vassoio è di porcellana, posatelo sulla ceniglia. Non è piatto difficile a farsi, e però vi consiglio di provarlo, persuaso che ve ne troverete contenti.